4 mattino. Ma con tanti incapaci che abbiamo qua in Calabria, proprio da Cesena ce lo dovevano mandare. Zuccatelli se ne deve andare. La gente sta scendendo in piazza. Io so 20 anni che non vedo gente in piazza. Non lo vogliono. Gino Strada deve venire. Buongiorno Simone, hai fatto bene dai di parlare un po' di immigrazione. Sono un ragazzo senegalese e la settimana scorsa ho visto che 2000 persone hanno perso la vita dentro il mare. Adesso ho bisogno di capire che in Africa, soprattutto in Senegal, che conosco lì meglio, stanno facendo come in campagna di disinformazione, dicendo che il Covid ha portato via molti europei, oppure non lo so, italiani, spagnoli, francesi. Allora l'Europa ha bisogno di manodopera, per quello questi sanno prendere barche a manetta per venire, e malgrado che il tempo non sia buono. La Campania è abitata da 6 milioni di persone, il 10% della popolazione italiana. Tanti, poveri, incazzati, non hanno risorse a cui attingere, lavorano di espedienti. Qui c'è una bomba sociale, le autorità non sanno come regolarsi, la Campania fa paura. E questo è un buon punto, cara ascoltatrice, che resta un po' sotto traccia in questo periodo, cioè il famoso motivo per il quale in Campania non viene dichiarata la zona rossa. E guardate, lo dico all'ascoltatore, mi ha riscritto di nuovo, non è una fissazione mia, cioè è una cosa sulla quale si stanno un po' interpellando tutti a fronte di una situazione complicata. E un pezzo della spiegazione sicuramente potrebbe essere quello che ci ha dato l'ascoltatrice che parla dalla Campania. L'ascoltatore dalla Calabria invece, basta, perché dovete mandarci un incapace da Cesena, visto che ne abbiamo già tanti da noi, mandateci Gino Strada, vedremo come andrà a finire questa vicenda. È interessante l'ascoltatore da quel che ho capito di origine del Senegal. Aggiungo un altro elemento, qualcuno ha scritto a proposito del bambino Joseph, 6 mesi, morto mentre veniva in Italia in un naufragio, in Italia o in Europa, nel Mediterraneo. Un ascoltatore ha detto: ma vogliamo parlare della madre che porta un bambino di 6 mesi con sé in un viaggio così pericoloso? Io penso sempre che si debbano guardare le situazioni di contesto. In Guinea ci sono state appena da poco, da un paio di settimane, tre settimane le elezioni, dopo le elezioni sono scattate delle violenze, ci sono delle persecuzioni etniche, non sappiamo esattamente quali fossero le condizioni di questa famiglia, e quindi stare a giudicare una persona. Io penso che una madre normalmente, se si imbarca su un gommone in mezzo al Mediterraneo con un bambino di 6 mesi, prima di farlo ci pensi 20 volte e non stia là a dire: oh che bello, adesso prendo il mio gommone e me ne vado nel Mediterraneo rischiando la morte. No, abbia pazienza. I genitori sono così dappertutto, eh? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, SMS, tutto quello che volete in questa seconda parte di 24 mattino, che è quella dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 12 novembre, sono le 7, 23 minuti e 30 secondi, e i titoli dei giornali si dividono un po' le aperture tra autostrade e ovviamente le questioni Covid. La Repubblica per esempio apre proprio sulle autostrade. Sicurezza sacrificata ai profitti è il titolo, tra virgolette, perché è, immagino, un passaggio dell'ordinanza del GIP, del giudice per le indagini preliminari. Se volete vedere un altro lato, o meglio un lato simile, dovete andare al Fatto Quotidiano, che titola United Colors of Manetton. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. E se volete invece un altro lato, un'altra visione, c'è il titolo del Riformista: giustizia fulminea, 4 arresti per il ponte Morandi. Poi in realtà gli arresti non sono proprio per il ponte Morandi, però questo è il punto del Riformista, che sottolinea dall'altra parte, dice insomma Castellucci ormai fuori da tutto, perché arrestarlo? Gli altri giornali sono un po' tutti su Covid, con il messaggio terrorizzante che ci arriva dal professor Ippolito sul Messaggero, il quale apre il giornale con questo: a Natale rischio terza ondata, feste senza eccessi, il peggio arriverà a febbraio-marzo, dice il professor Ippolito. Io vi prego, chiedo ai virologi, agli epidemiologi, pur di segnalare la necessaria attenzione, di andarci un po' cauti con le dichiarazioni. Libero, che apre con un chi muore e chi va curato, la scelta spetta ai medici, è un bel pezzo di Pietro Senaldi che ci racconta come sono cambiate le linee guida di anestesisti e rianimatori per fare la scelta nella quale ci si trovi di fronte a casi gravi. Superato il milione di casi è il titolo del Corriere della Sera, che comunque a centropagina anche la vicenda di Autostrade. Meno contagi ma ospedali già in tilt, il titolo del quotidiano nazionale. La Verità apre con le carte che inchiodano Renzi, con l'accusa che Open non era una vera fondazione ma la cassaforte dell'ex premier. Apre su Autostrade in realtà anche il Manifesto, casello giudiziario è il titolo, un segnale sulla curva è il titolo di Avvenire, sul messaggio, il segnale di speranza che è arrivato sul tema, sull'andamento dei contagi. La Stampa titola: Campania al collasso, esercito a Napoli, Di Maio che parla di situazione fuori controllo e Conte che dice daremo un segnale. Il Sole 24 Ore ci dedica invece alla Presidente della Banca Centrale Europea, a Christine Lagarde, che dice aiuti fino a quando serve. E infine il giornale che ironizza sul fatto che per il piano vaccini è stato selezionato il commissario Arcuri. E quindi il titolo com'è? È vaccino a rotelle, mettendo insieme la vicenda dei banchi e la vicenda appunto del vaccino. Da cosa iniziamo oggi per andare dentro le pagine dei giornali? Io direi da questa storia, da una storia che ha in parte a che fare col Covid, anzi ha molto a che fare col Covid e che ha, direi, il potenziale di dividere. Momo Mohamed El Haoui, detto Momo, è un eroe che resiste, come qualcuno gli scrive sulla sua pagina Facebook, o è semplicemente un irresponsabile? Fatto sta che ci racconta appunto il Quotidiano Nazionale a pagina 13 con Stefano Cecchi, che ha deciso di tenere aperto di tenere aperta la sua pizzeria. Vuole un po' di mozzarella di bufala sopra? No, grazie, va bene così. Come le sembra la pizza? Francamente è strana. E come dovrebbe sembrarmi? Tutta Firenze intabarrata nel coprifuoco, ristoranti e bar da ieri mattina hanno le saracinesche abbassate, il quartiere tutto attorno è depurato di vita e io alle 20:30, beatamente seduto a un tavolo apparecchiato, sto addentando una pizza margherita. È il racconto di Stefano Cecchi, che dunque va a parlare con questo ristoratore che ha deciso di tenere aperto, di fatto violando le regole. Questa estate facevamo 200 coperti tutte le sere con le regole di sicurezza adottate, le risulta che ci siano stati focolai nei ristoranti. Basta criminalizzare la nostra categoria. E dice ancora: guardi, noi rispettiamo tutte le norme che ci sono state chieste, rispettiamo le distanze, non più di 4 persone ai tavoli, perché non dovremmo tenere aperto? E Momo ha 3 ristoranti a Firenze, ha 50 dipendenti, dice: mio padre è stato 21 giorni in terapia intensiva, mia madre e il sottoscritto chiusi in casa a marzo durante il periodo peggiore, isolati, mai detto che il problema non esiste, ma che non si risolve in questo modo, chiudendo l'attività alle persone che hanno sempre rispettato le regole. E ovviamente la città, e non solo la città, si divide. Visto che siamo sul Covid, forse è il caso di cercare di capire come viene scelto quale regione diventa rossa, quale diventa arancione, quale diventa gialla. Beh, lo abbiamo raccontato molte volte, sono i famosi 21 indicatori e sulla base di questi 21 indicatori sono state fatte le scelte della settimana scorsa e sono state fatte anche le scelte nuove, quelle che per esempio hanno portato proprio la Toscana appunto in zona arancione. Regole che però adesso verranno subito riviste. A 2 settimane dall'avvio del test. I dati vecchi o incompleti che alterano il conteggio delle regioni, ci raccontano in un pezzo addirittura a 4 mani Monica Guerzoni, Simona Ravizza, Fiorenza Sarzanini e Alessandro Trocino sul Corriere della Sera. Da domani e ogni venerdì la cabina di regia dovrà valutare i posti letto in terapia intensiva e i ricoveri ordinari aggiornati al giorno prima della riunione, perché prima lo facevano su dati vecchi, come già avevamo raccontato, a dire il vero, nonché l'RT dei ricoveri con la proiezione ai 30 giorni successivi, indicatore che oggi non c'è. Gli esperti lo considerano necessario e nelle riunioni riservate il ministro Speranza avrebbe già chiesto di usare la fotografia dei dati più fresca possibile. Ebbene, nelle prime due azioni questi dati freschi non sono stati utilizzati. Una pausa. Mattino. La campagna non la mettono zona rossa solo perché De Luca è del PD. Se al posto suo c'era un esponente del centrodestra, vedete che era già zona rossa fin dall'inizio. Buongiorno Simone, io come essere umano mi vergogno di sentire quelle notizie dei naufragi e vorrei tanto sapere cosa potrei fare io per evitare quelle cose, che non conto nulla. Io non so che cosa si possa fare, cara ascoltatrice, io penso semplicemente tenere alta l'attenzione. E poi concordo con gli ascoltatori che scrivono, in parte concordo con alcuni degli ascoltatori che scrivono, queste persone vengono anche ingannate dai trafficanti di uomini che gli promettono chissà cosa, ma magari in certi casi, come nel caso di persone che vengono dalla Guinea, è la fattispecie, e parliamo del piccolo Joseph, 6 mesi, recuperato dal mare e poi morto, non ce l'ha fatta, mentre tentavano di curarlo sulla nave di Open Arms, semplicemente fuggono da una situazione di difficoltà, di guerra o di persecuzione. E invece sul fronte della campagna zona rossa, dico all'ascoltatore, questo non lo so sinceramente, mi sembra... Sinceramente fatico a pensarla così. De Luca del resto voleva la zona rossa, l'aveva chiesta esplicitamente. Queste perplessità da qualcuno sono state sollevate, cioè le zone rosse solamente nelle regioni guidate dal centrodestra, non lo so, gli stessi governatori di centrodestra, gli stessi presidenti di centrodestra dicono che non è così, sinceramente non voglio nemmeno pensare che si operino delle scelte di questo tipo su base politica e non su base sanitaria, in tutta sincerità. A proposito di sanità e di assembramenti, di zone rosse e via dicendo, vi voglio dare un paio di elementi molto rapidi, così chiudiamo il capitolo Covid. Dunque, come vi dicevo, in apertura di Libero c'è questo ottimo pezzo di Pietro Senaldi che ci racconta del nuovo documento realizzato dalla Società degli Anestesisti e Rianimatori, che ha a fine ottobre rieditato quelle che Senaldi definisce le regole della morte. Cosa vuol dire? C'è tutto il testo di questo documento che indica che cosa succede e come si deve comportare un medico nel momento nel quale ci sono, può dare, per farla semplice, assistenza solamente a un paziente rispetto ad un altro. Bisogna sempre provvedere in considerazione all'impossibilità di erogare un determinato trattamento sanitario in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, non può seguire l'abbandono terapeutico, dovendo il medico sempre provvedere in considerazione della sua posizione di garanzia a porre in atto le valutazioni e l'assistenza necessaria affinché l'eventuale progressione della patologia, attenzione a questo passaggio, risulti il meno dolorosa possibile e soprattutto sia salvaguardata la dignità della persona mediante un sostegno idoneo ad alleviarne le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali. Senaldi la traduce così: siccome non abbiamo ossigeno, caschetti e respiratori per tutti, curiamo chi possiamo, gli altri li sediamo per rendergli sopportabile il trapasso. così la traduce Pietro Senaldi. Occhio, perché questo è un punto del quale si è molto discusso nei giorni scorsi, quando sono uscite le linee guida, per esempio, degli ospedali svizzeri e della sanità svizzera, esattamente su questo tema. Ancora a volo d'uccello su Covid, due interviste e due racconti a pagina 9 del quotidiano La Repubblica. Sara Trippoli, che intervista un medico che non vuole dare nome e cognome, si chiama Maria, ha 40 anni e dice: non ce la faccio più, non resisto, mi licenzio dalla sanità pubblica, siamo sfiniti e adirati. Perché? Perché il reparto dove lavoro è diventato Covid e non lo era durante la prima ondata, ma nessuno quest'estate ha pensato di organizzare qualche corso di formazione. Le decisioni non sono prese di giorno in giorno, ma di minuto in minuto. Respingo quest'idea dell'emergenza e sono certa che a pensarla come me sono tutti i miei colleghi. E poi l'intervista ad un paziente, la realizza Carlo Picozza. Bruno Q, 58 anni, al San Camillo di Roma si è fatto 12 giorni su una barella, 12 giorni su una barella di attesa al pronto soccorso per poi finalmente ricevere le cure. Questo per darvi la misura della situazione. Le norme antiassembramento, qua ne abbiamo un po' di tutto, dalla stampa che appunto ci racconta che il governo sarebbe pronto a mandare l'esercito a Napoli, al Messaggero che in cronaca di Roma a pagina 61 ci racconta che in centro sono in arrivo i megafoni, allora targhe alterne la domenica, non so se potrà servire a qualcosa, e megafoni antifolla, cioè, quindi ve lo immaginate tipo quello dell'Arrotino però col megafono sopra che dice evitate l'assembramento, più o meno la scena dovrebbe essere questa. C'è tutto un fronte politico che mi pare che stia arrivando progressivamente qualche elemento di accordo, no? Di consonanza tra il Partito Democratico e Forza Italia. Non solo perché ieri le dichiarazioni di Silvio Berlusconi e di Nicola Zingaretti sono andate esattamente in questa direzione, con Zingaretti quasi a fare da stimolo al Presidente del Consiglio per dirgli ora muoviti e cerca un appoggio più largo, anche quello di Forza Italia, ma anche per quello che è successo in Parlamento. Il Sole 24 Ore non dà l'interpretazione politica, ce la mette giù freddamente con Andrea Biondi a pagina 21 e ci racconta che arriva la norma antiscalata per Mediaset nella battaglia con Vivendi. E però il punto interessante qual è? Il punto interessante è che questa norma antiscalata per Mediaset la presentata la relatrice al decreto che contiene la proroga dello stato di emergenza e altre misure di lotta all'epidemia e che è del Partito Democratico. E quindi più d'uno legge in questa operazione, nell'operazione del far approvare un emendamento antiscalata a Mediaset, una sorta di asse tra la maggioranza e Silvio Berlusconi che si consolida intorno appunto a questo emendamento, che prende corpo, inizia a prendere corpo intorno a questo emendamento. La Lega su questo fronte si è di fatto isolata rispetto agli altri. Prima ha votato no, poi con Salvini ha fatto retromarcia, con Salvini che stranamente in Senato prende la parola per dichiarare il voto su un emendamento e su un fatto abbastanza piccolo, a segnalare che qualcosa forse da questo lato sta girando. Trovate ampie pagine naturalmente sui quotidiani e super racconti sulla vicenda di Autostrade. Avete già sentito qualcosa in GR24, ne parleremo poi tra l'altro tra un attimo con il nostro direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Le cronache più complete, come vi dicevo, se volete due fronti diversi, potete andare a pescare il Riformista e il Foglio per la parte più garantista nei confronti dei vertici di Autostrade, e invece Repubblica e il Fatto Quotidiano per la parte un po' più dura, un po' più tosta. Cronache ne trovate per esempio anche sulla Stampa, prendo pagina 11 con Tommaso Fregatti e Marco Grasso, nella parte che più colpisce di tutto di tutta questa sezione dell'inchiesta, che è la parte che riguarda, seppur l'inchiesta è dedicata, l'inchiesta è dedicata alle barriere antivento, che sono considerate pericolose, alle barriere antirumore, scusate, che sono considerate pericolose soprattutto in caso di forte vento e attaccate male in sostanza. E però ci sono anche intercettazioni che riguardano il Ponte Morandi. Il 25 giugno 2018, un mese e mezzo prima del crollo e della morte di 43 persone, gli ex top manager di Autostrade per l'Italia ammettevano di essere a conoscenza dei rischi del viadotto. Paolo Berti, direttore generale delle operazioni, scriveva a Michele Donferri Militelli, Deus Ex Machina delle manutenzioni, gli diceva: i cavi del Morandi sono corrosi. E lui rispondeva, la dico in romano così lo sapete, sti cazzi, me ne vado. Così diceva, così gli rispondeva, appunto, ed è ovviamente l'intercettazione che colpisce di più. Ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Ed eccoci col nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, io partirei con te proprio dalla vicenda Autostrade. Oggi sul giornale ne scrivono Maurizio Caprino, Ivan Cimmarusti, Laura Galvagni, perché da una parte c'è ovviamente questo nuovo filone dell'inchiesta, o meglio un pezzo dell'inchiesta che sono partite dopo il crollo di Ponte Morandi, e questa riguarda, come dicevamo, questi 60 chilometri di barriere fuori norma, come raccontiamo bene sul giornale, e l'arresto dell'ex amministratore delegato Castellucci, ma dall'altra parte c'è ovviamente la partita finanziaria, no? Che adesso si accende ulteriormente, la chiusura dell'accordo con Cassa Depositi e Prestiti, con i due fondi. Io rimango convinto che in un paese normale i processi è bene che li facciano i magistrati e che vengano fatti nelle aule giudiziarie e non sulle piazze. Detto ciò, emergono continuamente, a proposito della vicenda Autostrade Benetton, degli elementi di conoscenza davvero sconcertanti. Penso che è opportuno che si trovi presto una soluzione per Autostrade, vi lavorano migliaia di persone, hanno il diritto di sapere che cosa aspetta il loro, che cosa aspetta loro per il futuro. Un punto credo che debba essere chiaro, e cioè chi ha sbagliato deve pagare, e anche in termini economici. Autostrade è stata fonte di tanti profitti, ripeto, chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare, e pagare fino all'ultimo centesimo. C'è un'altra notizia che teniamo in apertura oggi sul giornale, e che è una notizia direi molto importante anche per il sostegno al debito pubblico italiano, Fabio, proprio in ore nelle quali si sta decidendo, e lo raccontiamo anche questo sul quotidiano, un nuovo deficit per 15-20 miliardi per venire incontro ai problemi generati da questa seconda ondata, ossia che la Banca Centrale Europea ha detto: ragazzi, state tranquilli, compriamo fino a quando c'è bisogno, cioè non spaventatevi, mi sembra di aver capito, ed è l'apertura del giornale. Abbiamo scelto di aprirci il giornale proprio perché la dichiarazione della Lagarde e della banca, l'impegno che ha preso come Banca Centrale Europea, non è di ordinaria amministrazione. Ha seguito un po' la strada di Mario Draghi, che quando era presidente della BCE a un certo punto disse ai mercati: è inutile che vi imbarcate in questa o quell'altra speculazione, sappiate che BCE ha un bazooka, viene tradotto così dalla stampa italiana e internazionale, e questo bazooka, cioè la capacità di comprare, lo utilizzerà fino a quando ce n'è bisogno. Io credo però che vedo un pericolo. Questo non vuol dire non dobbiamo interpretare, sarebbe un errore grave, la sortita da Lagarde come un liberi tutti, perché i debiti a un certo punto devono essere pagati. Il sistema paese, l'Italia, ne ha davvero una montagna e non si può dire ma il comune è mezzo gaudio, perché noi ne abbiamo, almeno in Europa, più degli altri, e prima o poi questi soldi li dovremo restituire. Quindi è chiaro che occorrono interventi per l'emergenza sanitaria, ma attenzione, perché prima o poi arriverà la resa dei conti e quando la pandemia sarà passata nessuno, neanche in Europa, ci farà sconti. Per il 2022, per così dire, possiamo stare tranquilli, perché tra l'altro il commissario agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni ieri ha detto, ma ha dichiarato che le regole del patto di stabilità saranno sospese anche per l'anno prossimo. E però poi c'è, come dicevi tu, il medio e il lungo termine, che è il medio e il lungo termine del debito che lasciamo in eredità negli anni successivi. A proposito di Europa, Fabio, la lettura che Beda Romano sul Sole 24 Ore, pagina 7, del vaccino, della questione del vaccino, è una lettura che ci porta sul fatto che l'Europa della salute muove i suoi primi passi, perché l'acquisto del vaccino di Pfizer passerà esattamente da Bruxelles. È bene che la burocrazia di Bruxelles e anche l'Unione Europea si dia una mossa e trasformino in questi primi passi in una corsa rapida, perché l'Europa sulla salute non ha voce in capitolo, e noi sappiamo, tocchiamo con mano, lo abbiamo toccato con mano nei mesi scorsi, lo stiamo toccando con mano in questi giorni, quanto sia importante e quanto è necessario che le decisioni prese abbiano un senso a livello europeo. Se l'Europa c'è, deve funzionare ogni volta che ce n'è bisogno, e certamente la parte sanità-salute non è un argomento di poco conto e in cui andare, non è un fronte su cui andare in ordine sparso. Grazie anche per questa settimana al nostro direttore, direttore di Radio 24, il Cielo 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Fabio, a giovedì prossimo, buona giornata. Buon fine settimana a tutti, compatibilmente. Compatibilmente, grazie Fabio, alla prossima. Noi ci fermiamo qua, ci ritroviamo tra poco, ovviamente con Paolo Mieli, e non potremo non tornare sul tema della caducazione di autostrade, dopodiché resteremo su questo argomento perché avremo ospite il vice ministro alle infrastrutture, Cancellieri del Movimento 5 Stelle, e poi sì, la pandemia, il Covid, tra poco.